si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare, buongiorno da Alessio Maurizi, insieme fino alle 10 una rassegna stampa, un'occhiata alle pagine dei giornali di oggi, tra pochissimo poi cominceremo dopo il giornale radio delle 8 con i nostri ospiti, i nostri approfondimenti di attualità, sempre a caccia di buone notizie. Cominceremo, ve lo dico subito, parlando di scuola, perché in queste ore si sta ancora trattando con le rappresentanti sindacali dopo una settimana di forti proteste nel mondo della scuola. Si tratta soprattutto sul ruolo del preside manager che spaventa la piazza e vi proporremo un punto di vista diverso, perché si fa strada a un'ipotesi che uno dei motivi per cui che potrebbe spingere questa protesta è insomma la sfiducia ormai congenita da parte degli italiani nelle responsabilità dei singoli. Insomma, si dice il preside che ha più poteri farà i suoi interessi, farà i fatti suoi, assumerà soltanto gli insegnanti amici suoi. Una interpretazione però si dice pericolosa, perché se questa cosa vale per i presidi può valere per tutti, può valere per gli insegnanti, può valere per i genitori, ognuno si fa i fatti suoi. Allora, se invece non vogliamo seguire questa strada, così almeno ci invitano a ragionare per esempio l'associazione dei presidi che sentiremo tra poco, dovete avere fiducia nei presidi. Non vogliamo fare gli sceriffi nelle scuole italiane, vogliamo solo avere un ruolo di responsabilità per gestire al meglio le scuole. Un punto di vista tra i tanti in una settimana nella quale si è parlato molto di scuola, sentendo sicuramente le ragioni degli insegnanti, che vi proporremo dopo il giornale radio delle 8. Adesso però iniziamo con la rassegna stampa, vai. Nuovo, perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora andiamo sui giornali, dove naturalmente si parla molto dell'Inghilterra con i risultati definitivi delle elezioni e la vittoria di Cameron, che ha sbaragliato tutti gli altri avversari, i laburisti, i liberaldemocratici, ma anche gli anti-europei, e poi un po' di politica italiana naturalmente, la questione dei vitalizi, la questione dei rimborsi delle pensioni. Cominciamo con il Corriere, titolo principale sull'Inghilterra: Cameron apre la partita europea. Leggiamo velocemente: elezioni nel Regno Unito, David Cameron conquista la maggioranza assoluta dei seggi con un risultato, un trionfo che i Tory non raggiungevano dal 92, e sbaraglia quattro avversari politici costringendo alle dimissioni tutti: il laburista Miliband, il liberal democratico Nick Clegg, che ha pagato sicuramente l'alleanza un po' nell'ombra con i stessi conservatori, poi il populista Nigel Farage, nonostante il suo partito abbia raccolto 3 milioni e mezzo di voti, il terzo partito, cioè il 13% del totale, ma alle europee aveva avuto il 26%. Il primo ministro britannico ora annuncia il referendum sull'Europa. Dal voto emerge anche il successo delle forze nazionaliste scozzesi. Leggiamo una breve, tra le tante analisi del Corriere, Danilo Taino. Angela Merkel ora non è più sola. Dopo i risultati di ieri in Gran Bretagna, la cancelliera tedesca e il suo ministro delle finanze Schäuble non sono più isolati tra i leader del mondo nel sostenere che la cosiddetta austerità permette di vincere le elezioni al partito che la persegue, oltre a crescere, a creare la crescita, perché la Germania e la Gran Bretagna hanno questo in comune: governi conservatori che spingono sull'austerità, tagliano la spesa pubblica, però riescono a ottenere anche la crescita. Cameron non a caso ieri ha riconfermato il cancelliere dello scacchiere Osborne, il ministro che negli scorsi 5 anni ha tagliato del 10% la spesa pubblica nazionale e di più, in alcuni casi del 50% addirittura quella locale. Quindi tagli drastici alla spesa pubblica, una strategia che sembrava destinata al fallimento in economia e in politica, ma che ora mette in dubbio le certezze molto diffuse invece di chi dall'altro lato sostiene che solo con molta spesa pubblica si possano superare i momenti difficili. difficili. Andiamo sempre, restando sul Corriere, sugli altri due temi importanti, per esempio quello delle pensioni, questa ricerca di soldi per restituire il blocco della rivalutazione Istat, totale costerebbe 14 miliardi, ma il governo è orientato a non fare tutte queste restituzioni. Quale strada si sta cercando? Le ultime sono queste, le ultime notizie che si hanno, perché anche qui c'è stato un toto notizia in questi giorni impazzito. Allora, si va dalla divisione per scaglioni, cioè restituire di più a chi ha una pensione più bassa, per poi ridurre l'importo del rimborso mano a mano che l'assegno diventa più ricco. Oppure si pensa anche di stabilire una soglia massima, 3.500 o 4.000 euro lordi al mese, cioè pensione abbastanza ricche, insomma, no? Oltre le quali potrebbe non esserci alcuna restituzione, ma tra le diverse ipotesi allo studio per limitare il costo dell'operazione di rimborso rispunta anche il contributo di solidarietà, una cosa di cui abbiamo sentito parlare miliardi di volte, che non è stata quasi mai fatta, se non poi, salvo poi essere anche questa bocciata da qualche corte. Di cosa si tratta? Di un prelievo aggiuntivo che potrebbe essere applicato agli assegni più alti, quelli al di sopra di 5.000 euro lordi al mese. Quindi queste sono le ipotesi per quanto riguarda il tema dei rimborsi. Il governo a caccia di fondi, tra l'altro anche il famoso tesoretto di cui aveva parlato il governo Renzi qualche settimana fa, diciamo un extra bonus nei conti pubblici, 1,6 miliardi, 1,7 miliardi o poco più, che il governo stava decidendo come investire, potrebbe, anzi quasi sicuramente andrà destinato a questa operazione. Altro tema, i vitalizi con la misura, lo sapete, del blocco, con la restituzione dei contributi versati, il blocco dei vitalizi per i parlamentari, ex parlamentari ovviamente, condannati per reati gravi e pene più di due anni, condannati con più di due anni di pena, che per il Movimento 5 Stelle, che ha lanciato ormai da anni questa battaglia contro i vitalizi in generale, figuriamoci contro quelli per i condannati, è troppo poco, non serve a nulla invece al contrario per Forza Italia, che era contraria appunto. La via di mezzo che è stata trovata è questa, l'intervista al ministro della Camera Laura Boldrini, che difende il risultato, diciamo che è un risultato portato avanti oltre che dai partiti che l'hanno votato, la Lega, il PD, SEL, Scelta Civica eccetera, anche da lei e da Grasso. Siamo stati rigorosi, i cittadini condannati prendono le pensioni, ora i parlamentari no. E questa è la linea, diciamo, del Piave, della Boldrini. Leggiamo la prima domanda: non è un compromesso al ribasso, presidente Boldrini? Risposta: il partito del non è mai abbastanza sarà sempre in agguato, pronto a sminuire qualsiasi cambiamento. L'ufficio di presidenza della Camera e il consiglio di presidenza del Senato hanno approvato una delibera che non ha precedenti. Votare la cessazione dei vitalizi per gli ex parlamentari condannati in via definitiva per reati gravi è un segnale di discontinuità e moralizzazione della politica chiaro e forte, che va incontro alle richieste di centinaia di migliaia di cittadini. Ma non le dispiace che l'abuso d'ufficio sia rimasto fuori dall'elenco dei reati, cioè tra i reati per i quali si perde il vitalizio non è rientrato l'abuso d'ufficio, uno dei reati classici di molti politici? Risposta della Boldrini: abbiamo voluto fare una scelta sui reati gravi e gravissimi, mettendoci dentro la mafia, il terrorismo, la corruzione, la concussione e l'omicidio. L'abuso d'ufficio è un reato grave, ma non grave a questo livello. Difficile però spiegarlo, ancora la domanda del giornalista del Corriere, ai tanti cittadini per i quali il vitalizio andrebbe tolto, anche ai parlamentari onesti, cioè proprio tolto del tutto. Io sono tra questi che la pensano così, ma questo non conta. Risposta della Boldrini: a un cittadino italiano che ha versato i contributi e poi si è macchiato di un crimine grave, quando esce dal carcere la pensione non gliela leva nessuno. Noi invece siamo più rigorosi: al parlamentare che pure ha versato i contributi e si macchia di reati gravi, il vitalizio non glielo diamo più. E questo è il punto di vista di Laura Boldrini. Sul tema dell'abolizione dei vitalizi per i condannati a più di due anni, vi segnalo l'interpretazione data da Libero che in prima pagina scrive: la genialata di Grasso e Boldrini, un regalo milionario ai parlamentari condannati. Uno potrebbe dire, di che si tratta? Di questo. Non solo Berlusconi, molti altri onorevoli, scrive ancora Libero, incappati nelle maglie della giustizia, beneficeranno del blocca vitalizi, incasseranno subito i contributi versati per centinaia di migliaia di euro. Cioè, il tema della restituzione dei contributi versati da questi parlamentari, che naturalmente, venendogli bloccato il vitalizio, gli vengono restituiti i contributi che loro hanno versato, contributi che sono soldi pubblici ma che loro avevano già incassato. Questo comunque è un punto di vista. Andiamo sul traffico, anzi ci fermiamo per le informazioni sul traffico e torniamo tra poco sui giornali di oggi. Vai. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta oggi il giornale a un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. Riprendiamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi. Prima di iniziare il programma, si può fare tra poco, dopo il GR delle 8, parleremo di scuola. Allora, due notizie di cronaca su due giornali diversi sono queste. A Nuoro, un ragazzo ucciso, scrive il Corriere in prima pagina, giallo a Nuoro. Gianluca Monni era uno studente modello, è stato ucciso a fucilate nel nuorese mentre andava a scuola. Gli investigatori seguono la pista della vendetta dopo una lite per difendere la fidanzata. L'altro caso altrettanto grave è quello di Roma. Prima pagina in questo caso del Messaggero: shock a Roma, tassista stuprata e rapinata e caccia al cliente. Aggredita e violentata da un cliente, una normale corsa si è trasformata in un incubo per una tassista romana di 43 anni. La donna, intorno alle 7 di ieri mattina, ha dato l'allarme al 113. Sconvolta, ha raccontato agli agenti che cosa aveva subito. Torniamo invece sui quotidiani nazionali con una notizia che in questo caso è un'anticipazione di Repubblica sul tema degli immigrati e delle nuove politiche, diciamo, dell'Unione Europea. C'è stato un Consiglio Europeo in settimana, è sembrato inconcludente, ma quello che è in grado di anticipare Repubblica, la notizia ci sarebbe tutta. L'Unione Europea: accogliere gli immigrati sarà obbligatorio per tutti i paesi membri. La svolta umanitaria del piano Juncker par di sognare, perché queste sarebbero proprio le richieste dell'Italia. Ma insomma, se il giornalista di Repubblica Alberto D'Argenio è ben informato, si tratterebbe di una bella notizia sicuramente. Ecco la bozza della nuova agenda della Commissione, che poi dovrà passare al vaglio del Consiglio Europeo, cioè dei governi dei singoli paesi e anche del Parlamento Europeo. Ma insomma, il Parlamento è probabile che voti. Più difficile è che tutti i paesi membri adottino delle risoluzioni del genere. Perché? Perché è una rivoluzione, scrive Repubblica, nel segno della solidarietà, quella in arrivo da Bruxelles sulla politica europea per l'immigrazione. Obbligo per tutti i paesi ad accogliere chi sbarca sulle coste italiane o degli altri paesi rivieraschi. Quindi obbligo per tutti i paesi. Missione nei porti libici per sequestrare e distruggere i barconi dei trafficanti di esseri umani. Aiuti ai paesi di origine e transito per sgominare le bande criminali che ruotano intorno alla Libia. Sono questi i punti cardine della nuova agenda sull'immigrazione che, salvo sorprese, sarà approvata mercoledì dalla Commissione europea e le cui bozze iniziano a circolare tra le cancellerie continentali. Un testo ambizioso, oltre ogni aspettativa, grazie all'impegno personale del presidente dell'esecutivo comunitario Jean-Claude Juncker, ma anche del rappresentante della politica estera l'italiana Federica Mogherini e del commissario all'immigrazione Dimitris Avramopoulos. Se passerà questa agenda, che poi dovrà essere, ripeto, approvata dal Consiglio, cioè dai governi e dal Parlamento di Strasburgo, cosa cambierà? La novità di maggiore rilievo, se verrà confermata mercoledì, è la proposta di creare un sistema di quote obbligatorie di ripartizione tra tutti i paesi europei dei migranti già presenti sul territorio dell'Unione. Per fare un esempio, gli stranieri oggi stipati nei centri d'accoglienza italiani o maltesi, ormai al collasso, saranno sparpagliati tra i 28 paesi dell'Unione con un criterio di quote obbligatorio al quale nessun governo potrà sottrarsi. Capite bene che si tratta di una cosa forte. Saranno poi i paesi in questione a occuparsi delle pratiche di asilo e dei rimpatri in modo da alleggerire non solo i paesi che fronteggiano gli sbarchi, ma anche quelli dove oggi la maggioranza dei rifugiati si stabilisce, come Germania, Svezia, Francia, Italia o Belgio. Vedremo a metà settimana se questa notizia verrà confermata. Sarebbe per l'Italia sicuramente una buona notizia. Sempre in tema di argomenti internazionali, l'intervista, vi segnalo, al ministro degli esteri Gentiloni da parte del Sole 24 Ore. Dall'Expo alla Libia, l'Italia non è più marginale. Gerardo Pelosi fa un po' di domande a Gentiloni, restiamo giusto sul tema, per esempio, sempre dell'immigrazione, del transito dalla Libia e del fatto che l'Italia si è mossa in sede ONU per fare una risoluzione. Dice Gentiloni: i tempi per una risoluzione dell'ONU non sono così lunghi, tra una decina di giorni si capirà se la bozza preparata dall'Italia è presentata dal Regno Unito, sul quale esiste già l'intesa tra Francia, Gran Bretagna, Spagna e Lituania, possa essere accolta anche dagli altri 11 membri del Consiglio. Nella bozza di risoluzione si fa esplicitamente riferimento a colpire gli scafisti e i barconi. Si fa riferimento infatti al capitolo 7 della Carta dell'ONU che prevede l'uso della forza. Quindi, insomma, Gentiloni è ottimista sul percorso di questa risoluzione dell'ONU lanciata dall'Italia. Anche questa è notizia di questa settimana, che fa dire a Gentiloni: dall'Expo alla Libia, l'Italia non è più marginale sullo scacchiere internazionale. Il Sole 24 Ore, che come titolo principale ha Cameron e lavoro americano fanno volare i mercati, buone notizie quindi per quanto riguarda l'economia anche italiana, perché a marzo la produzione più 1,5% è il dato migliore dall'aprile scorso. Sul Italia Oggi vi segnalo, per quanto riguarda la riforma della scuola, di cui pure ci occuperemo dopo il GR delle 8, scuola, la riforma al restyling, anche qua si tratta di anticipazioni, le trattative tra il governo e rappresentanze sindacali avrebbe dato i buoni frutti, si parla di ritocchi apportati con degli emendamenti al testo del governo. Tra i principali ritocchi figura la possibilità per gli insegnanti di candidarsi alle scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, la nuova dimensione subprovinciale di iscrizione dei docenti di prossima assunzione che prende il posto degli albi, e questa è un'altra novità. Il meccanismo affiancherà quello della chiamata da parte del dirigente, che aveva fatto arrabbiare gli insegnanti. Prima di chiudere, velocissimamente, una buona notizia, vai! And now, the good news! Andiamo a Licata, in Sicilia, dove il commissario, perché il comune è commissariato, Maria Grazia Brandara, ha annunciato sconti sul fisco, sulle tasse locali agli imprenditori che denunciano il pizzo. Un'altra notizia del genere si affianca a quelle già fatte in altre città in Sicilia, dove si continua a stringere le maglie attorno alla criminalità, alla mafia e al pizzo. Ci vediamo, ci risentiamo dopo il GR delle 8 con Si può fare. A tra poco. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Buongiorno. Buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti e buon sabato. Eccoci qua, cari ascoltatori, vi aspettiamo al numero verde 800 24 00 24. Perfetto. Per stare con noi di io sabato mattina. Muovo le labbra ormai. Quando tu dici il numero 800 24 00 24, io muovo le labbra da 2 anni, perché mi sto preparando a dirlo io prima o poi. Forse l'ultima puntata di quest'anno, intorno a fine giugno, sì, lo dirò, sì, io di nuovo. Sì, sì, sì. Oggi Milano Monterosa, sole, bellissima giornata, sole stupendo. Io ti devo portare i saluti, siccome sono in giro con il book tour di Fossi in Te, io insisterei. Ma non possiamo dirlo in italiano, no? Ah, hai ragione, sono in giro con il viaggio per l'Italia con il giro di presentazioni del mio libro Fossi in Te, io insisterei. E bravo. Quindi io faccio l'altra metà della radio, insomma, incontro i nostri ascoltatori, perché sempre più spesso alle presentazioni vengono ascoltatori in realtà che sperano di ascoltare Alessio Maurizi. Lo devo confessare, questo. Potremmo fare una carambata da qualche parte. È un po' sì, ma forse devo iniziare a fare l'inviato, perché è proprio bello. È bello girare per l'Italia e incontro ovunque persone che dicono: io ti ascolto, io vi ascolto. Tipo sempre. Che arrivo io e parli tu, però. Ti ricordi come faceva Giusti certo. La notte su Rai 3, che parlava. Però anche che ci doppiamo uno con l'altro. Esatto. Beh, se facessi tu le presentazioni, io sarei felicissimo. Hai una voce 35 volte più bella della mia, e quindi. E comunque, allora, settimana prossima sarò a Asti il 13 maggio, giusto, a Siena il 15 maggio e a Torino il 17 maggio al Salone Internazionale del Libro. Poi, la domenica mattina alle 11. Infatti, mancherò qua, ma ne parleremo più avanti. Dovrai scrivere un libro per raccontare le tappe di presentazione del tuo libro. È un po' quello che penso che farò. Il libro del libro. No, in realtà non penso di scrivere un altro. Me lo chiedono in continuazione, tutte le volte rispondo così quando mi dicono scriverai un altro libro. Dico, ma che ne so, è come se fossi una puerpera che ha appena sgravato e tu andresti in sala operatoria dicendo: signora, è nato, ne vuole subito un altro. Ma no, in questo momento non lo so, vorrei godermi questo per adesso. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo anche per giocare con noi come ogni sabato e domenica mattina. Oggi vi proponiamo, parleremo di scuola tra poco, e quindi anche il gioco sarà sulla scuola, sui maestri, sugli insegnanti. Sì, vi chiediamo insomma il vostro insegnante, il vostro professore migliore nei vostri ricordi, o peggiore della vostra scuola, anche. O anche il peggiore, perché alla fine poi la scuola chi la fa? La fanno le persone. La scuola che cos'è? È un luogo. Perché è sparita la base? In regia, non sento più nulla, c'è questo silenzio. Base. La base, ecco, sì. Partiamo da questo. Si sta trattando ancora sulla scuola proprio in queste ore. Tra l'altro, alcuni giornali oggi, l'ho letto prima in rassegna stampa, riferiscono di notizie rassicuranti, nel senso che si sarebbe trovata un'intesa tra. Insomma, è stata una settimana di proteste da parte degli insegnanti e degli studenti. Sono scesi in piazza, preoccupati soprattutto dalla figura del preside manager. Ebbene, siamo vicini a un'intesa. La figura del preside manager sarebbe un po' attutita, accompagnata da alcuni docenti nella scelta degli insegnanti da selezionare tramite curriculum, insomma. Cioè, che diventa forse un po' più manager e un po' meno sceriffo, nel senso che lo sceriffo ti dà proprio l'idea che uno decide tutto da solo. Un manager comunque in teoria ha però un consiglio d'amministrazione. Non diciamo sceriffo, perché il nostro primo ospite è proprio un preside che dice: non chiamateci sceriffi, no, vogliamo solo il bene della scuola. Diciamo che giustamente la notizia che hai dato è che in realtà si sta spostando la figura da sceriffo a manager. E quindi noi vi chiediamo questo, cari ascoltatori, all'800 24 00 24, i vostri racconti, i vostri ricordi sulla scuola, il professore migliore o il peggiore che avete avuto, e come sempre il racconto più bello vince un premio. Oggi i biglietti del concerto di Enrico Ruggeri, il nostro Ruggeri, per il concerto di Campione o per quello di Roma. A Campione il 16 maggio, a Roma il 25 maggio, le due date del concerto di Ruggeri. 800 24 00 24, iniziamo, vai. In questa città comandano le pistole. Bisogna essere sempre i più veloci. Chi spara prima vive ed il secondo muore. E non ci serve né un prete né un dottore. È pieno di bastardi qui nel Midwest, che per $2 ti vendono la madre. Ma quando Gesù Cristo ti butterà il smoothie, o sei uno sceriffo o sei un bandito. Non ti devi fidare mai. Sceriffo bandito di Jovanotti, perché l'abbiamo detto, insomma, non chiamateci sceriffi. E questa è la parola che è stata un po' usata in settimana per definire la nuova figura del president manager che si andava delineando nella riforma voluta dal governo, la buona scuola. Non chiamateci sceriffi, lo dice per esempio chi? Il presidente nazionale dell'Associazione Dirigenti Scolastici, che è qui con noi, Ezio Delfino, al telefono. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. E agli ascoltatori, anche a voi che conducete questa trasmissione. Buon sabato, preside. Grazie. Senta. Sono seduto sulla scrivania della mia presidenza. Immaginiamo il sabato con la bandiera italiana di fianco e dietro la foto di Mattarella. La foto di Renzi. La stiamo preparando. Pensavamo alla foto di Renzi. Invece no. Ah, giusto, la foto di Mattarella. Perché è cambiato da poco, non ci avete ancora. Cioè, scusi, quanto è che è stato eletto Mattarella adesso? È già pronta. Alcuni mesi. Ma cioè, non è che prendete quella di Napoletano e gli aggiungete i capelli? No. Ma scusi, facciamo, ci vogliono alcuni mesi solo per cambiare la foto della Napoletana Mattarella? Così. L'abbiamo già cambiata, certamente. Ah, l'avete già cambiata, sì. Ok. Sì. Se no ci preoccupavamo, perché ci vogliono mesi solo per cambiare la foto. Immaginiamo per la buona scuola, esatto. La scuola dove va a finire? No. Senta, preside, noi abbiamo raccolto in qualche modo il suo, se vogliamo, anche grido di dolore. Non chiamateci presidi sceriffi. Insomma, voi fate parte della scuola, lei dice, non avete cattive intenzioni, perché una delle letture che è stata fatta di questa protesta, giusto protestare, sicuramente è legittimo, però qualcuno ha voluto vederci questo, diciamo, la sfiducia ormai congenita che c'è un po' in Italia nei confronti delle responsabilità dei singoli. I presidi assumeranno solo gli insegnanti, i loro amici, faranno i loro interessi, faranno quello che gli pare, però qualcuno giustamente dice, se la mettiamo su questo piano, allora questa sfiducia può contagiare chiunque, i docenti, gli insegnanti, certo, i genitori, e quindi meglio non seguire questa china. A che abbiamo deciso di chiedere a lei, in quanto rappresentante anche di questa associazione di presidi, perché dovremmo fidarci, diciamo, del vostro nuovo ruolo previsto dal governo? Beh, intanto il fatto che ci sia il dubbio che i presidi siano capaci di nominare direttamente i propri professori è un dubbio che la dice lunga sulla nostra categoria. Probabilmente dobbiamo farci qualche domanda anche noi, perché se non abbiamo dimostrato questa capacità di gestire, no, le persone, questo ci interroga. Non godete di buona stampa, diciamo. A parte questa triste premessa, sì. Volevo dire che io ritengo che non si tratti di parlare né di sceriffo, né di sindaco, né di manager. Forse c'è qualcosa di queste tre figure, anche evidentemente nel ruolo del preside, ma soprattutto di una persona di un responsabile. Dando questo tema è tutta la pregnanza, perché responsabile vuol dire rispondere di qualche cosa a qualcuno, e quindi secondo me questa ricentratura sul ruolo di responsabilità del dirigente è una sottolineatura importante e interessante, perché in qualsiasi ambiente di tipo educativo o di comunità il principio di autorità è un principio necessario affinché le cose funzionino. Sì, però scusi, le voglio fare subito una domanda a questo proposito, perché se in questo, diciamo, in base a questa assegnazione di maggiore responsabilità che la riforma della buona scuola vi assegna, tra cui per esempio anche la selezione degli insegnanti tramite curriculum, a questa cosa corrisponde anche poi, diciamo, una verifica di questa responsabilità, cioè se avete fatto bene o male il vostro lavoro? Alla fine il preside, diciamo, è, non dico rimuovibile, ma a che tipo, diciamo, di sanzioni può andare incontro? Ecco, questo è il vulnus della situazione attuale, cioè che chi lavora nella scuola, docente, personale o dirigente scolastico, ad oggi non subisce nessuna forma di valutazione e quindi eventualmente di valorizzazione o di censura, se non per casi proprio eclatanti o così clamorosi. E quindi è opportuno che nel disegno di legge e quindi nella legge vengano introdotti meccanismi di valutazione molto severi, molto rigidi. Anche per i presidi, lei dice? Sì, so per certo che negli emendamenti che sono stati presentati uscirà appunto un sistema di valutazione dei dirigenti molto, almeno sulla carta, molto rigoroso, molto serio, con valutazioni triennali, a termine dei quali poi il preside potrebbe essere o rimosso e spostato in una scuola magari che ha un profilo più legato al profilo del medesimo, sì, o addirittura poi allontanato dalla quindi a queste responsabilità si accompagnerebbero anche, come dire, delle possibili censure, come dice lei, diciamo una verifica dell'operato. Senta, ma le risulta che, lo scrive Italia Oggi, proprio nell'edizione di oggi, che le trattative sarebbero a buon punto e diciamo forse si è trovata anche la quadra, cioè il preside sarebbe affiancato da due insegnanti nella scelta poi dei docenti da selezionare in base al curriculum, cioè non sarebbe più solo a fare questa cosa qua, le risulta? Sì, mi risultano queste proposte e questi tre accordi, poi di questo che cosa ne uscirà poi nel testo di legge non glielo saprei dire. Cioè l'accordo non c'è ancora? L'accordo proprio totale non c'è ancora, perché al momento queste trattative sono state svolte dal Partito Democratico, sì, che ha incontrato in questi giorni tantissime associazioni professionali e alcuni sindacati, e attraverso questi colloqui si è capito che c'è questa linea di ammorbidimento, ecco, se così vogliamo dire. Però una cosa lei ce la può dire invece, credo, perché lei che diciamo difende in qualche modo questa riforma, lei dice il preside sceriffo è un'invenzione polemica di chi non vuol cambiare, quindi in qualche modo difende questa riforma, perché secondo lei c'è bisogno di una gestione con più responsabilità, più manageriale della scuola rispetto a quello che invece è avvenuto in passato? Ma perché in un'esperienza come la scuola occorre che ci sia uno che risponda di quello che sta accadendo, che sia messo in grado di rispondere, cioè chiunque ha cominciato a fare il dirigente scolastico è partito con l'intenzione di offrire la propria competenza, la propria, diciamo, professionalità e in qualche misura anche la propria vita per il bene di tutti, no? Per favorire il bene di tutti, perché accadono reali esperienze di scuola, di libertà educativa, di cultura. E quindi chi assume questa responsabilità deve essere messo in grado di svolgerla fino in fondo. Ovviamente con tre diciamo attenzioni. La prima è che non sia il preside a gestire la scuola deve essere gestita da un organo che si chiama un consiglio d'istituto, si chiami un board come all'estero, un consiglio di amministrazione, come dice qualcuno, che dia l'indirizzo, come si dice, politico, l'indirizzo culturale, l'indirizzo della singola scuola, possibilmente composto anche di genitori e di esponenti delle realtà territoriali, a cui il preside deve rispondere. Poi al preside si lasciano le responsabilità e anche il rischio professionale per raggiungere quegli obiettivi. Secondo, il preside deve essere aiutato e quindi inserito in un gruppo di docenti, un cosiddetto staff di direzione, un gruppo di direzione, cioè di docenti che oltre all'insegnamento decidono di offrire anche la propria competenza per un'azione di corresponsabilità col preside, non so, nell'orientamento, nella formazione docenti, nel rapporto col territorio, nella didattica, e in terzo luogo appunto garantire che poi il preside a cui vengono date queste possibilità decisionali, secondo queste tutele, poi venga controllato, appunto venga valutato e se ha fatto bene premiato, se ha sbagliato o se non è all'altezza di quell'istituto eventualmente gli venga proposto un istituto di altra natura, di altro tipo. Questa è un po' la mia ipotesi. Certo, ma mi scusi, lei giustamente dice non chiamateci sceriffi, non chiamateci manager, però quello che mi chiedevo, che è il presidente nazionale DISAL, che è l'associazione dei dirigenti scolastici, è lui che dice la scuola dovrebbe essere organizzata come un'azienda. E io quello che mi chiedo, dico, da un lato io capisco questo, che è un modo anche semplicemente per dire bisogna eliminare una certa burocrazia, però la paura non esiste, diciamo, la paura del fatto che le aziende portano il vantaggio del fatto di avere una giusta concorrenza, infatti le aziende migliori ce la fanno, le aziende peggiori non ce la fanno, ma le scuole non possono non farcela, nel senso che non è che possono chiudere le aziende che non funzionano, ovvero che uno, la scuola di Lecco non funziona, allora chiude e tutti gli studenti di Lecco devono andare a studiare a Como. Questo non mi sembra possibile. Quindi come si fa ad avere una scuola che sia un'azienda? Cioè, non c'è un po' una contraddizione in questa parola? Quello che può essere preso dal termine azienda o appunto dall'ambito aziendale è la parola decisione, secondo me, cioè la possibilità che chi svolge ruoli di responsabilità in una scuola o di corresponsabilità si è messo in grado di poter decidere, con una propria autonomia, anche con un proprio rischio. Questo è un po' l'aspetto che in qualche misura oggi manca nelle scuole, quindi non si tratta di assuefare il modello scolastico a quello aziendale, sarebbe totalmente sbagliato, ma di restituire alla scuola degli spazi decisionali che sono sia di gruppi collegiali, evidentemente, ma anche di singoli e tra questi il dirigente scolastico. Senza il rischio, senza la capacità di decidere, le scuole tante volte si bloccano in una sorta di guado, di mediazioni, no? Di falsa democraticità che lascia le cose come stanno. Certo. Va sì, bene, sì. Insomma, qui il dibattito sarebbe lungo sicuramente. Noi abbiamo voluto intanto, diciamo così, anche dare un punto di vista diverso rispetto a quello che magari gli ascoltatori possono avere già sentito in settimana con i vari approfondimenti giornalistici sui giornali, ma anche in televisione abbiamo sentito molto le ragioni degli insegnanti, della protesta, giustamente, legittima, e anche le ragioni del governo. Volevamo sentire la voce dei presidi, non pregiudizialmente contrari a una riforma che li responsabilizza. Grazie Delfino per essere stato con noi, Presidente Disal, buon sabato. Grazie mille, arrivederci. Bocca al lupo a lei e a tutte le scuole, diciamo così, scuole italiane. E noi aspettiamo anzi i vostri racconti. C'è già qualche messaggio, per esempio su Twitter Tonio Monda, che ci segue sempre, dice: il mio insegnante migliore è stato quello di topografia, sempre con la battuta pronta, che ci dava il buon umore. Vedi, 800 24 00 24. Cari ascoltatori, vi aspettiamo tra poco dopo il meteo. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Allora, intanto c'è qualche ascoltatore che chiede chiarimenti, come per esempio fa Antonio al 349-238-6666, dice: scusate l'ignoranza, ma quindi si assumerà in base al curriculum nelle scuole? Non è molto chiaro. In effetti è proprio quello di cui si sta discutendo, perché sì, la riforma prevedeva anche questo, cioè che il preside potesse scegliere in base al curriculum. Ma soprattutto che potesse scegliere in autonomia, in totale autonomia. In base al curriculum, invece adesso... non più solo in base alle graduatorie, come è stato fino adesso. Però insomma, le ultime notizie dicono che il preside sarebbe affiancato in questa funzione anche da due docenti, quindi un mini pool, un mini team dentro la scuola, e che comunque poi ci sarebbe ancora la possibilità per i docenti di inserirsi in graduatorie territoriali. E comunque insomma è tutto in discussione. Sì, direi che per spiegare anche lunedì la difficoltà di tutto questo argomento, un altro sms che ci arriva è: scegliere l'insegnante in base al curriculum è ridicolo, perché è meglio un neolaureato in gambe con entusiasmo piuttosto che un docente con molta esperienza e formazione ma che aspetta la pensione. Si può essere d'accordo, come sempre però è molto difficile, perché comunque esistono anche invece docenti che hanno un ottimo curriculum e forse anche loro hanno diritto di lavorare. Sì. Io concordo che invece molto spesso un neolaureato molto giovane ma probabilmente ha più entusiasmo. Sì. Come scegliere, cioè come avere una regola per decidere? Credo è difficile. Che il preside, quando valuterà i curriculum, valuterà anche quello, se ha bisogno di insegnanti esperti all'interno della sua scuola dove magari ci sono molti giovani, oppure se ha una scuola con molti insegnanti, esatto, di una certa età, con molte esperienze, e ha bisogno invece di qualche rinforzo più giovane. La ratio, credo, del lasciare liberi i presidi di decidere è anche proprio quella di fare un team di insegnanti che sia completo al suo interno. Mario da Milano, buongiorno ascoltatori. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io ho molte cose da dire sul tema, le spiego. Io sono un assistente amministrativo dal 2007, lavoro nella scuola, cioè l'impiegato, no? Quello che non è né il preside né il professore. Allora, okay. Io sono d'accordo col vostro ospite che è intervenuto sul principio di autorità e sulla decisione. Sì. Faccio breve per un semplice motivo. Quando tu hai, e ne ho visti tanti, potrei fare nomi e cognomi, un insegnante che arriva in graduatoria, nomini lui, prende e va in gravidanza, rimane incinta e allora va via. Arriva il supplente di questo insegnante, prende e va in malattia. Insomma, alla fine tu chiami 1, 2, 3, 4 persone per fare un posto di lavoro. Stessa cosa per gli amministrativi. Io ho visto gente che nel 2015 non sa usare Excel. Non ho detto C++, ho detto Excel. Non sa fare una fotocopia. Finisco il ragionamento. C'è un detto che dice: la guerra si fa con l'esercito che si ha. Ok, ma se il preside si può scegliere l'esercito, amico, tu non sai usare Excel, va bene, vai via. E chiamo, vista la, fame di lavoro, sì, visto il periodo di crisi, e chiamo uno che lo sa usare, poi finisco. Questo è utile per l'utenza. Benissimo. Perché avresti un ufficio efficiente, e quindi tu, che sei anche utente, che vai lì con i bambini, hai una persona efficiente. Quando hai uno che nel 2015 non sa usare Excel, mi spiace, di cosa stiamo parlando? No, è molto giusto. Il problema è capire se è... Il problema è la guerra, fare la guerra. No, il problema la metafora della guerra. Forse Excel non è tutto, nel senso che giustamente uno poi ha bisogno di quello che sappia usare Excel, però ha bisogno anche un insegnante che sappia insegnare. Magari c'è qualcuno che non sa tanto usare bene Excel, però è un ottimo insegnante. Quindi, però il preside è più comodo qualcuno che sappia usare Excel. O sbaglio? Casa da 3 anni con medici compiacenti, e non parliamo del paese dei falsi invalidi che portano certificati su certificati. L'alunno ha bisogno dell'insegnante, e quando l'insegnante cambia ogni mese, ma ascolta, di cosa hai ragionissimo. Dov'è la sua tesi? Ha ragionissimo. Perché una volta sta male, una volta in gravidanza, ma quello che è danneggiato è lo studente. Sì, non urliamo, ma il problema è quello che autostrada sento poco. Ma questo va bene, questo è un problema che c'è nel mondo del lavoro, non è un problema specifico della scuola. E non credo che vogliamo dire che le donne incinte non possono rimanere a casa e avere il posto di lavoro che gli viene assicurato. Quindi è un problema generale, non è un problema che ha solo la scuola, giusto? Va bene, ma se lei va nel privato, ci sono anche gli scansafatiche, e io l'ho vissuta perché prima lavoravo nel privato, che vengono semplicemente lasciate a casa, perché nel privato, lei mi insegna, nel 2015 ci sono contratti da un mese, da una settimana, da 3 mesi, mentre nella scuola i contratti o sono annuali o sono di ruolo, punto. Quindi questa gente non rischia niente. Va e io adesso faccio bene, parte. Mario, se vogliamo difendere i contratti che durano un mese, va bene, difendiamoli. Abbiamo capito il suo punto di vista. Mario, grazie per essere stato con noi. Poi no, ci sono anche questo, no, ci sono anche contratti che durano il tempo di una sostituzione, per esempio. Comunque, sono quasi tutti precari, il problema in questo momento è esattamente quello, giusto, che vorrebbero essere assunti, sono in 150.000. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra poco, aspettiamo anche i vostri racconti sul vostro insegnante migliore o peggiore, insomma, quei racconti di come la scuola vi ha anche un po' cambiato la vita. Vai. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ilala, ilala, ilala, ilala. Che bella gente, capisce tutto. Sa il motivo, ma non il trucco. Scruta dietro persiane vecchie ormai. Ti fa sempre gran domande. Poi ti intaglia come un diamante. Aspetta che tu crolli per dire agli altri: l'avevo detto io. Bisognerebbe stare tutti zitti, non dare retta neanche ai tuoi fratelli. Parlare piano piano a bassa voce. Vedi Gesù che l'hanno messo in croce. Embe, embe. Vuoi o non vuoi, devi fare così. Io sulla croce ci andrei. Ma per chi? Per chi? Ilala, ilala, ilala, ilala. Ilala, ilala, ilala, ilala. Che bella gente, capisce tutto. Sa il motivo, ma non il trucco. Che bella gente, che per Simone Cristicchi è naturalmente ironico e in senso in un'accezione negativa, invece è veramente bella gente quella che ha deciso di sposare una battaglia di solidarietà nei confronti di un bambino disabile, Gabriele, 10 anni, che stava per andare in gita con i suoi compagni di scuola, ma quando si sono accorti che lui non riusciva a salire sull'autobus perché non c'erano le pensiline, hanno deciso di non andare in gita semplicemente. Ne è nata una petizione indirizzata al ministro Del Rio perché queste cose non succedano mai più. Noi ne parliamo e diamo il buongiorno e il benvenuto a Luca Faccio. Buongiorno a tutti e vi ringrazio dell'invito. collaboratore del Fatto Quotidiano, il giornalista che ha fatto uscire questa notizia. Ce la vuoi raccontare intanto, Luca, com'è andata? Allora, prima cosa, non sono un giornalista, ma sono un blogger del Fatto Quotidiano. Vabbè, giornalista, diciamo. Giustamente i blogger prendono per un insulto il fatto di essere definiti giornalisti. Per un insulto, no? Vabbè, prego, è bello, è bello. No, giusto, sei un blogger. È solo una precisazione. Ma sì, giustissimo. No, niente, avendo una disabilità, essendo laureato in scienze dell'educazione nel 2005, ho vissuto anch'io delle difficoltà e mi è dispiaciuto molto che nel 2015 possano ancora succedere delle cose così. Il bambino in questione, 10 anni, stava per andare in gita con i suoi compagni di squadra dell'istituto comprensivo di Rovito, in provincia di Cosenza. Poi che cosa è successo? Poi è successo che di solito quelli che lo aiutano, da quello che ho letto praticamente, sì, di solito riuscivano a farlo salire nei mezzi che avevano utilizzato più volte, però questa volta è stato difficile e forse hanno scelto di non andare, anzi impossibile. Sì, e quindi insomma i compagni di classe, di gita, hanno deciso di non andare. Cioè, se non sale lui, non saliamo andiamo neanche noi. Questo è il gesto molto bello. Gesto molto bello, bisogna dirlo. Credo che insomma chiunque l'avrebbe fatto, ma forse non sempre, magari invece poi succede realmente una cosa del genere. Questa notizia ha fatto un po' circolata, è arrivata anche a te, Luca, che hai deciso poi di fare una petizione, cioè di girare una richiesta al ministro Delrio, ministro delle infrastrutture, quindi anche con competenza sul tema, diciamo, delle infrastrutture scolastiche. Che cosa hai chiesto a Delrio, che tra l'altro ti ha anche risposto? Sì, ho chiesto che in un paese democratico venga permesso a tutti i cittadini di poter usufruire dei servizi. È caduta la linea. No, Luca, ci sei ancora? No, non c'è più. Cioè c'è, ma la linea si sente disturbata. Allora, la cosa interessante, visto che abbiamo parlato prima di presidi, è anche interessante che la preside della scuola Filomena Lanzone si è impegnata a trovare un autobus idoneo per un ragazzo che si sposta con la sedia a rotelle, ma in tutta la provincia non esiste un mezzo attrezzato che possa compiere lunghe percorrenze. Questo mi sembra il dato, senso che non è colpa del preside, ma è colpa del fatto della disattenzione nei confronti di chi è in sedia a rotelle. Sembra di voler dire che il sud si conferma in arretratezza. Non sapevo nemmeno che fosse nel sud, quindi no, è proprio invece sì, e invece purtroppo tocca dirlo, cioè a Cosenza non ci sono mezzi per trasportare bambini disabili, per esempio in una gita. Sì, ma magari non ci sono nemmeno in un altro paesino del nord. Io non ne farei una questione di nord e sud, ne farei una questione del fatto che il tentativo c'è stato, ma non esistono le strutture, cioè non c'è proprio l'attenzione culturale del fatto che ci sono delle persone che non possono salire sull'autobus se gli fai una porta che è larga 38 centimetri. Visto che abbiamo perso Luca, dico io velocemente la petizione che ha scritto al ministro Delrio. Insomma, dice: auspico che questa situazione si risolva per il meglio quanto prima e che lei, come ministro per le infrastrutture e i trasporti, e Matteo Renzi, come presidente del Consiglio, prima di puntare sulle grandi opere, sui grandi eventi, vi adoperiate per garantire a tutti i cittadini disabili e non delle città i servizi necessari per muoversi. Noi avevamo sposato anche la battaglia di Jacopo Meglio, vorrei prendere il treno, vorrei prendere il bus, se vogliamo l'hashtag da utilizzare. La petizione la trovate insomma online su change.org, se volete firmare fate una cosa sicuramente giusta, è importante, bella. Abbiamo Franco che ci chiama da Lecco, prima di chiudere questo blocco. Buongiorno, benvenuto. Sì, sono, grazie. Eccolo. Buongiorno. Su cosa vuole intervenire, Franco? Io ho avuto un maestro elementare eccezionale, tra l'altro nel profondo nord, Lecco, Bergamo. Questo maestro calabrese ha portato un po' di, come si può dire, mediterraneità, e niente, lo ricordo perché una cosa particolarissima: mentre noi facevamo i compiti in classe, lui suonava il mandolino. Addirittura. Ma di che anni stiamo parlando? stiamo parlando degli anni 67-68. Cioè, ma in classe lui suonava il mandolino? In classe lui, mentre noi facevamo i compiti in classe, gli ma non, non vi distraeva un po' con questo mandolino? No, no, assolutamente. Vi faceva compagnia? Eccezionale. Tra l'altro, lui sapeva l'italiano perfettamente, senza nessuna inflessione dialettale calabrese, era di Vibo Valentia, e ci ha insegnato i verbi. Ah, pensavo ci ha insegnato il mandolino. Sì, sì. Ha poi insegnato i verbi? I verbi dell'italiano in una maniera fantastica, dividendo la classe in due e facendoci fare delle gare di verbi, di tempi, di coniugazioni. Ecco. Era già bella questa. Questo mi sembra interessante, perché sennò rischiamo di raccontare la favola del sud con il mandolino. Quindi mi sembra interessante capire che invece questo è un ottimo insegnante che vi insegnava bene i verbi. Giusto? È caduta la linea? Cosa succede oggi? È caduta la linea. Va bene, questo era il primo racconto dell'insegnante, in questo caso il migliore, credo che fosse l'insegnante delle scuole elementari, no, medie, cos'era? Elementari o medie? Mi sono perso, che insegnava, ma perché mi parlate dalla regia mentre sto parlando? C'è il giornale radio, ci fermiamo e ci ritroviamo subito dopo 800 24 00 24, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. L'uomo nell'altra macchina ha una faccia che già ho capito non mi farà passare, che piuttosto preferisce morire che concedere un centimetro a me. Quattro gocce ed è sempre così, siamo bloccati qui a guardare le lancette girare, per non diventare matti sognare, di scappare, di non tornare più. Grazie a Dio è venerdì, e grazie a Dio sei qui, e cacceremo via i pensieri che torneranno lunedì, ma non pensiamoci. Godiamoci ogni istante, guardo il tergicristallo che va, corre di qua e di là, ogni volta a cancellare la pioggia, ma ogni volta viene giù un'altra goccia, poi altre mille finché ripasserà. Forse siamo anche noi come lui, non ci fermiamo mai, ma poi il vetro si continua a bagnare, quello dietro ha incominciato a suonare, metto in prima se no mi ucciderai. Questa è Si può fare, e questa che avete ascoltato è Venerdì di Max Pezzali, che è la canzone segnalata dalla nostra ascoltatrice, anzi dal nostro ascoltatore, chiedo scusa, Gianni, che ieri non vedeva l'ora che arrivasse il weekend anche per ascoltare Si può fare. Hai capito? Diciamo, ci siamo un po' fatti influenzare dalla lusinga, ma sì, va bene così. Vi ricordiamo che noi aspettiamo sempre, stiamo cercando dei Si può fare in musica, che ce li potete segnalare. Che ce li potete segnalare. Si sto anche sbagliando un po' le parole. Oggi stamattina va un po' così. Segnalateceli, lo potete fare sui nostri account social, ovvero Si può fare trattino Radio 24 se lo volete fare con Facebook, oppure con Twitter chiocciola Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio chiocciola Ale Maurizi. Allora, voglio ricordare la petizione per mandare in gita Gabriele, bimbo disabile di 10 anni, la trovate su change.org, l'ha lanciata Luca Faccio, l'abbiamo sentito poco fa, c'era un disturbo sulla linea, abbiamo chiuso la telefonata un po' prima, ma insomma è importante perché è una bella causa, già 8.000 firme e speriamo che siano molte molte di più nei prossimi giorni. Cari ascoltatori, all'800 24 00 24 vi aspettiamo per parlare di scuola con noi, per raccontarci il vostro professore migliore o anche il peggiore, il maestro migliore o il peggiore. I buoni e cattivi maestri. Buoni e cattivi maestri, possiamo dirla così, con un'espressione classica. E abbiamo di nuovo con noi Franco D'Alecco, che ci stava parlando della sua esperienza piuttosto curiosa. Franco, perché questo maestro, intanto che scuola era? Media o... era una scuola elementare. Scuola elementare. Questo maestro negli anni 60, che mentre facevate i compiti suonava il mandolino, ci ha incuriosito, volevamo un attimino approfondire. Ma niente, poi vi ho accennato alle gare di verbi, di verbi, e poi il sabato era quasi obbligatorio andare a giocare all'oratorio che era vicino alla scuola, al pallone. Ma nell'orario scolastico? No. Certo, sì, nell'orario scolastico. Cioè, durante la scuola vi portava a giocare a pallone all'oratorio? Mi portava a giocare al pallone. E ci credo che era l'insegnante migliore, perché questo... Era fantastico. Era fantastico. E poi... Però, scusa, non facevate lezione, giocavate a casa? No, praticamente la lezione era giocare al pallone, era ginnastica, ma una partita di pallone, proprio all'italiana, è una cosa interessante. No, però questa cosa poi si dice che oggi la scuola non è più come una volta. Però sentite qua, cioè in questa scuola l'insegnante suonava il mandolino e portava i ragazzi a giocare a pallone all'oratorio. Ora io non so quanti di voi si sono poi laureati nel frattempo o hanno proseguito gli studi. Una buona media? Una buona media. Tutti calciatori siete tutti diventati. Calciatori. Sì, esatto. Io ho continuato a giocare a pallone, poi ho smesso. Vedi. Ma è stato lui che ha instillato questa passione. Franco, ma tu poi sei andato avanti negli studi o ti sei fermato all'elementare? No, io ho fatto il liceo scientifico e adesso sto facendo il camionista, ho fatto tutto un percorso particolare. Vabbè. Comunque, è una bella storia questa, bellissima. No, veramente. Vi dico una cosa interessante e poi chiudo. Immaginatevi, sempre come ho detto prima, Profondo Nord, l'atrio della scuola, una festa, noi cantare Vitti na Crozza, non so se la conoscete, come è una canzone siciliana. Certo. Eravamo tutti un po' stonati, ma il maestro ci ha così allenati. Sì. E gli occhi sgranati delle maestre delle altre classi, ascoltare noi. Non c'era ancora nessuno, non c'era ancora nessuno della Lega che protestava. Bravissimo, perché... bravissimo, cioè... erano altri tempi. Ma infatti la parte bella che mi sembra di questa storia è il racconto del fatto che spostare degli insegnanti, anche che vengono da altre regioni, in realtà ha unito il paese, ha reso possibile il fatto di conoscere persone di altre regioni e altre canzoni e altri pezzi di cultura del nostro paese. Straordinario racconto di Franco, grazie. 800 24 00 24, questo è, diciamo, è il primo intervento che si candida per, diciamo, per vincere anche oggi. Mettiamo in palio i biglietti per il concerto di Enrico Ruggeri, quindi continuate a chiamarci per raccontarci la vostra scuola, il vostro insegnante migliore o peggiore. Carlo da Belluno, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Buongiorno. Ecco, io proprio l'incontrario di questo signore ho vissuto l'esperienza. Cos'è successo, Carlo? Io ho 58 anni, è successo che avevo una maestra che ci prendeva per le orecchie ogni mattina... arrampiato ogni mattina, si prendeva come... Ma proprio letteralmente? Come? Letteralmente, tecnicamente per le orecchie vi prendeva? Ma certo, tecnicamente, e non solo, ma ogni mattina arrampiato, era la prima cosa che faceva era di prenderci per un orecchio e alzarci proprio dalla terra. Ma senza motivo? Ma uno per uno, vi alzava tutti? Cioè, era, no, faceva esercizio fisico, sì. Era la prima cosa che faceva appena entrava in aula... Ma nessuno sentiva. Ma avevate delle responsabilità voi o proprio lei entrava, sceglieva uno così a caso e lo tirava su per le orecchie? Tutti fuori, fuorché le donne, le ragazze le lasciava stare. Ah. Però la domanda di Carlo, scusa, lui, voi non avevate nessuna responsabilità? Ah no, se era la prima cosa che faceva quando entrava in aula, che motivo c'era? E quanti anni è rimasta questo insegnante? 3 anni purtroppo, ho dovuto sopportarmela per 3 anni. Ma è stato un trauma, direi che è stato un trauma, perché sentiamo che ancora adesso... Carlo, ma poi le è capitato di rincontrarla questa insegnante in futuro? Ha saputo che fine fa? No, per fortuna, altrimenti, a parte che ero bambino e allora cosa volevo che facessi? Volevo solo bucarmi le ruote della sua bianchina. Ci credo. credo. Beh, chiediamo alla professoressa se ci sta sentendo, alla maestra, chiedo scusa, se ci sta sentendo, di chiamarci, che così magari ci spiega anche l'altro pezzo della storia di come mai vi tirava su per le orecchie. Se ho capito bene, si parla di una cinquantina d'anni fa, però chissà, magari chissà. Era una giovane insegnante, potrebbe essere ancora le viva. Le insegnanti sono molto longeve. Oppure ci chiameranno tutti quegli altri insegnanti che facevano la stessa cosa, cioè tiravano su per le orecchie i loro alunni, ma non credo fossero molti, però io non ho mai sentito una roba del genere. Io ho fatto la scuola tedesca, quindi non... Cosa facevano? Non posso parlarne. No, io sono stato benissimo alla scuola tedesca, non mi lamento minimamente. Tutti pensano che sia... Anzi, io con il mio professore di tedesco andavo a bere delle simpatiche birrette, quindi non c'era della gran cattiveria. Quasi come la storia di Franco col mandolino, traffico. Sì. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 800240024. Buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Abbiamo qualche tweet, qualche sms da leggere, vediamo un po'. Per esempio c'è un ascoltatore che chiede, ma adesso Carlo, non tu ma quello di prima, ha le orecchie da Dumbo? Volevo leggerlo anch'io perché volevo anch'io chiedere come stava il nostro Carlo. Va anche, secondo me, detto, lui era molto molto arrabbiato anche 50 anni dopo, sì. Va anche detto che una tirata d'orecchie non ha mai ucciso nessuno, non mi sembra una vessazione incredibile. È vero che forse la tirata d'orecchio così a random, che uno entra in una stanza e prende uno e lo alza per le orecchie senza nessuna motivazione, escludo che non ci fosse proprio nessunissima motivazione, oppure un po' non di casino come forse mai. Lo facevano sicuramente. La mia insegnante, per esempio, di tedesco, quando andavo a scuola alle medie, quando noi facevamo casino in classe, usava questa tecnica: si fermava all'ingresso dell'aula, ferma, in silenzio, zitta, immobile, aveva sempre il solito cappotto grigio, e stava... Ci stiamo intristendo. Sì, era una scena tristissima. Finché noi finché noi non ci zittivamo, e a volte ci volevano anche 5-10 minuti, lei non si muoveva. E la sua idea era: dovete capirlo da soli, non vi dico niente. E noi andavamo avanti anche per mezz'ora a volte a fare casino. In genere, però, dopo un po' vedere questa persona immobile, con l'aria così. Da testimone, agghiacciata, aveva il suo effetto. Ci fermavamo da soli, poi lei entrava, sfilava senza alzare una mano. È un metodo, secondo me, molto più interessante e soprattutto che ti spacca la psiche. Secondo me straordinaria, era straordinaria. Abbiamo ascoltatori? Sì, ce l'abbiamo in linea. Chi abbiamo? Roberta dalla provincia di Cremona, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Sì. Allora, sì, ho ascoltato un po'. Io sono dirigente scolastica, sì, in un istituto superiore di Cremona. Sì. La mia esperienza è sia, diciamo, un punto di vista da studente, per cui ho avuto un insegnante di liceo che ha effettivamente orientato la mia vita futura, nel senso che ha... Nel bene o nel male? Secondo me nel bene. Benissimo, come? Oddio, magari avrei potuto fare un mestiere diverso, a quest'ora non lo so, guadagnerei molto di più di quello che guadagno facendo la dirigente, però... I soldi non fanno la felicità. Certo, la scelta di fare l'insegnante... E poi dopo di andare avanti. Cioè, la scelta di fare l'insegnante. Roberta, è maturata un po' anche quando lei andava a scuola? La scelta, sì, di diventare insegnante? Perché questo, sì, insegnante l'ha condizionata in posizione. Sì. Com'era questo insegnante? Ce lo racconta? Era un insegnante severissimo, devo dire la verità. Che, come sempre, in realtà sono i più amati, possiamo dirlo? È vero, è vero. Insegnante di latino e greco che è molto severo ma molto imparziale, quindi noi sentivamo che era giusto e usava lo stesso metro di valutazione con tutti. Altra ma cosa importantissima, la cosa meravigliosa era che lui riusciva a trasmettere questo suo amore per le discipline classiche e ad appassionarci, perlomeno a me, dopo magari altri miei compagni. Che cosa insegnava? Che cosa insegnante italiano? Latino e greco. L'aveva detto. E proprio, infatti, della classe mia, della mia classe di liceo, in sette siamo andati poi a fare lettere classiche. Come si chiamava? Almeno il nome di battesimo, possiamo dirlo? O anche il cognome? Sì, il nome di battesimo Fausto. Poi anche il cognome, perché gli insegnanti sono noti per il cognome. Pensavo che non lo sapesse nemmeno il vero nome di battesimo, di solito, di questi professori. Sarebbe, Allora, lui sarebbe una persona che, insomma, no, non vorrebbe essere nominata, perché oltretutto secondo però me è una persona un'eccezione molto discreta. E lo nominiamo. Professor Pirotti. Pirotti? Pirotti, sì. Pirotti. Il Pirotti, oggi c'è il Pirotti, che paura, interrogherà latino e greco, meraviglioso. Grazie per questo racconto, grazie Roberta. Mille. Anche perché noi regaliamo verità, uno o due biglietti per il concerto. Possiamo regalarne anche due, credo, sì. Perché se dovesse vincere la signora, secondo me ci deve andare con il professore. Col Pirotti. Ci deve andare assolutamente col professor Pirotti. Pirotti. Adesso chiamaci. Arrivano messaggi tipo: il mio professore di lettere nelle medie ci faceva seguire il Giro d'Italia come lezioni di geografia. Tra l'altro inizia oggi il Giro d'Italia, tra poco parliamo di un'altra bella notizia che viene da Licata, dove chi denuncia il pizzo non paga le tasse, sentiremo tra poco. Ci sono altre tweet, messaggi che vuoi leggere? Insegno da 10 anni, non sono appena laureata, sono super motivata, nelle private dove a decidere chi assume sono i presidi mi hanno sempre esclusa perché non avevo alle spalle nessuno, okay. Eppure alla statale genitori, figli e colleghi si complimentano del mio lavoro. Vedi, una storia anche questa. 800 24 00 24, vai. Laureato presto, sì, ma nonostante questo ho trascorso 5 anni ricercando un posto, così ho deciso di investire su me stesso. Partita IVA per raggiungere il successo. Faccio le nottate all'agenzia delle entrate per poter essere il primo alle 9 del mattino. C'è il capo dell'ufficio, timbri che è un tiranno e si lamenta per le poche ferie che gli danno. Se la prende con me perché ho interrotto la sua pausa caffè. Allora, due parole intanto su questa canzone che sentite, che è di Paolo Antonio, si chiama Piacere Salvatore, è una canzone ironica che si può, diciamo, acquistare dove volete, negli store, a 0,99 centesimi un euro. Il ricavato andrà tutto ad Addio Pizzo, l'associazione che si occupa da tanti anni e con successo della lotta al pizzo e alla mafia. Quindi grazie anche a Paolo Antonio, a questa canzone, per introdurre Maria Grazia Brandara, commissario di Licata, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi. Buongiorno. Eccoci qua. Come dobbiamo chiamarla, commissario? Chiamatemi Maria Grazia, così come hanno imparato a fare i miei concittadini licatesi. Perfetto, perfetto. Mi divertiva Sentila chiamarla com'è. Commissario, ma la chiameremo commissario Maria Grazia. Senti com'è, autorevole ma anche spigliata e simpatica. Maria Grazia Brandara, commissario di Licata, perché, diciamolo, sono tante. Quante saranno in Italia? Ora, non la voglio mettere in difficoltà, le città commissariate sempre di più per mafia. Sono tante. Posso dire che in questo momento ci sono soltanto 2 comuni in provincia di Agrigento commissariati, 2 filmati dal posto. 2 comuni solo in provincia di Agrigento, ci sono tante province in Sicilia, tante altre in tutta Italia. Lei, commissario, da 5 mesi ha fatto questa proposta che lascia, diciamo, in eredità poi a chi diventerà sindaco con tutti, insomma, con le elezioni, con tutti i crismi della democrazia, però in questo momento di reggenza ha detto: anche qua voglio dare un segnale, non facciamo pagare le tasse locali, quelle che dipendono dal comune, a chi denuncia il pizzo, un incentivo forte per dare una mano a chi fa questa scelta molto coraggiosa, perché ricordiamolo, ci vuole coraggio, non è da tutti, è vero? Oh, assolutamente sì. Devo dire una cosa, il comune è stato commissariato perché purtroppo per la seconda volta i 2 sindaci che si sono succeduti prima di me hanno avuto problemi con la giustizia, diciamo così. E quindi il governatore, il presidente Crocetta, ha pensato di mandare me come commissario, anche perché io ho un'esperienza maturata e non solo, perché attualmente continua a gestire dei beni confiscati alla mafia per conto di 7 comuni della provincia di Agrigento. Voglio subito specificare che è un impegno che assolvo gratuitamente e lo intendo come una sorta di volontariato civile. Quindi appena insediato, come avete ben precisato, sono... Scusi, ci può ripetere, perché glielo devo dire, abbiamo la linea, Maria Grazia, un po' disturbata, quindi non sentiamo chiarissimamente le sue parole. Lei che cos'è che svolge gratuitamente? L'incarico di... quale incarico? Io presiedo il consiglio di amministrazione di un CDA che gestisce beni confiscati alla mafia. Ok. Per conto di sette comuni. E questo lei lo fa gratuitamente, come volontariato civile? Gratuitamente, perfetto. Come volontariato civile. Okay. E quindi è la persona perfetta per fare il commissario di Licata, giustamente. Bene, devo dire che infatti la mia azione è stata improntata fin dall'inizio, vabbè, certo, per dei paletti di legalità. Infatti non esistevo, ho fatto pubblicare l'albo dei beni confiscati, ho preparato il regolamento, e credo siamo tra i pochissimi. Ho fatto georesidenziare di beni confiscati. Però ci vuol dire adesso su questa notizia invece perché secondo lei è giusto e lei l'ha proposto, lo vuole fare a Licata, già qualche altra città lo ha voluto fare, insomma, di fare gli sconti fiscali a chi denuncia il pizzo? E lo dico subito perché. Perché quando noi abbiamo dato un elogio, un riconoscimento ufficiale a Francesco Urso, questo imprenditore che ha avuto il coraggio di denunciare il pizzo, anche perché non se la sentiva più la mattina di andare a lavorare per dividere il suo guadagno con gente disonesta. Allora abbiamo dato questo elogio ufficiale. Poi mi sono detta, qua stiamo rendendo straordinario un fatto che dovrebbe essere normale, anche lo stesso Urso l'ha più volte affermato. Però siccome dovevo uscire fuori da quelle mura del comune, il messaggio per tutti gli altri imprenditori, che purtroppo invece soggiacciamo alla prepotenza di quattro delinquenti, sì, allora abbiamo detto, guardate che c'è la parte della legalità, è bello e conviene pure. Quindi come comune vi faccio la proposta, che lasciamo, come abbiamo detto, alla futura amministrazione, ma già la direttiva è già stata fatta, quindi per continuità amministrativa in qualche modo saranno impegnati a portarla avanti. Vorrei vedere se si tirano in giro. Perché non potrebbe approvarla già lei subito, commissario Maria Grazia, non è possibile farla subito. Perché è una materia di regolamento, va sempre poi votato dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale ha cessato le sue funzioni. Però ci può dire una cosa, perché scusi, ci può dire una cosa prima, perché speriamo che poi naturalmente il Consiglio Comunale che ci sarà lo voterà, lo adotterà. Quanto può arrivare a risparmiare? Quanto sono questi sconti fiscali? Perché l'incentivo, io credo che sia sacrosanto per chi denuncia il pizzo, un incentivo che diventa sostanzioso, cioè sono pochi spiccioli, oppure veramente può essere un incentivo che un imprenditore dice, guarda, mi conviene talmente dal punto di vista economico che io questa cosa che magari avevo già in animo di fare decido di farla, denuncio, vado, perché così mi ritrovo anche conto economico migliore alla fine dell'anno. Cioè quanto sono questi sconti fiscali? Guardi, io ancora gli uffici non hanno quantificato, perché non so quanto il signor Russo paghi. Io devo concludere che il provvedimento sarà fatto per ora in favore del solo il signor Russo, che è l'unico che ha denunciato il pizzo. Ma se lei considera che ha un'azienda, dico, viva Dio, devi soltanto evitare, risparmierà un poco di migliaia di euro, insomma. Quindi, secondo qualche me migliaio di euro, uno che ha un'azienda per solo per la Tari, qualche migliaio di euro, beh, non è poco. Non sono decine o centinaia, ma se parliamo di migliaia. Faccio una domanda stupidissima: giusto, non c'è il rischio che qualcuno denunci del pizzo che in realtà non è avvenuto semplicemente per non pagare le tasse? E lei pensa che sciocca sia l'istituzione comune, che anche le forze di polizia che ci stanno accanto in questi controlli? Il vostro regolamento sarà molto rigido intanto per ottenere il provvedimento di tassazione. Bisogna già arrivare, come Urso, a condanna definitiva degli estortori. Quindi non basta fare la denuncia. Perfetto, quindi confermo che la mia domanda era molto stupida e le chiedo scusa. No, assolutamente no, altro che stupida, è una domanda assolutamente pertinente. No, ma però la risposta è molto meglio. La risposta è molto meglio perché giustamente lei dice: siccome bisogna prima arrivare alla condanna, se uno fa una denuncia qualunque, non arriverà alla condanna, non avrà nessuno sconto fiscale. Quindi mi sembra che questa legge funziona molto perfettamente. Commissario Maria Grazia, un'altra domanda: quante sono le persone che insomma fanno queste denunce già oggi? Cioè, qual è la base di partenza di cui partiamo? Perché insomma, lei ha ricordato che questa inchiesta che ha riguardato Licata è partita con le dichiarazioni proprio di un imprenditore, e quindi la sua denuncia del pizzo, un caso per fortuna che c'è stato, ma ce ne sono altri in provincia di Agrigento o anche in Sicilia, o veramente si parte da piccole poche mosche bianche? Ce ne sono tanti, anche grazie all'azione della Cessione Andrea, che poi avvia pizzo, la gente adesso va acquisendo consapevolezza dei propri diritti. Dobbiamo puntare su un patto assolutamente di rivoluzione culturale. Se non è possibile, lo stesso discorso vale sia per chi è vittima di esatto che per chi è vittima di usura, ma si permette a gente di ricominciare a raccontare quello che succede anche dentro i famosi palazzi del potere, perché io tra l'altro sto portando avanti una battaglia, sto usando quella di Libera, che è quella di la confisca dei beni non solo ai mafiosi ma anche ai politici e ai funzionari corretti. Perché se è vero che incide la corruzione per 70 miliardi di euro l'anno, le capisce che altro che finanziare. Certo. Possiamo permetterci, giusto? Assolutamente. Speriamo che tutto questo diventi sempre di più realtà. Le dico anche una cosa, Maria Grazia, c'è un ascoltatore che ha scritto: il commissario di Licata pensavo fosse Montalbano, perché gliel'hanno già detto. Ma che, per Assonata, per perché Assonata, è Vigata, Vigata, in Vigata, quella era Vigata. Grazie. Grazie. Buon sabato, Maria Grazia Brandara. Grazie mille. Speriamo che inizi una nuova fiction che si chiama Il commissario Maria Grazia di Licata. Sì. La scrivo io da sceneggiatore, la scriverò io. E speriamo soprattutto che il prossimo Consiglio Comunale di Licata adotti questo provvedimento del commissario, che insomma è una proposta a questo punto. Ci sono comuni che l'hanno già fatto, anzi se volete scriverci al 349-238-6666 o mandarci, telefonarci 800-24-0024 o su Twitter, ci volete scrivere di esperienze del genere di cui siete a conoscenza, ci fa senz'altro piacere. Ci sono un sacco di messaggi sulla scuola. Molto bello uno, anni 60, il mio maestro elementare oltre al resto insegnava a spazzare in terra sia ai bambini che alle bambine. Ora sono professore universitario. Pensa. Ma ho sempre saputo come impugnare una ramazza. Non solo, il maestro ma anche... Ciotti, un grande, era un socio di Edoardo De Filippo, saluti Franco Barbanera. Quindi non solo impugnare una scopa, ma credo anche il messaggio, diciamo, simbolico di occuparsi dello spazio in cui si sta, della pulizia. Però è anche bello perché lui a sua volta adesso è professore universitario, quindi chissà se ai suoi alunni ha continuato a impugnare la ramazza. Ci chiami Franco Barbanera. Poi c'è un altro che scrive: uno splendido ricordo del maestro elementare che ci faceva cantare le opere di Verdi. Maestri straordinari, chissà se ci sono ancora dei maestri così. Ma sì, che io ci lo sono. Spero che Viola, quando mia figlia andrà a scuola elementare tra un paio d'anni, ne trovi qualcuno di questi maestri straordinari. Cosa facciamo? Abbiamo ascoltatori? No. Pubblicità. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. L'avete capito, è il momento di Rossano Ercolini. Dove ciao lo butto? Rossano. Buongiorno dalla Calabria. Questa volta dalla Calabria, ma per noi sei Rossano Ercolini from Capannori, naturalmente, sempre e comunque. Capannori in prima fila nella battaglia zero grazie, rifiuti. Grazie. Allora, insomma, il governo vuol trivellare la Basilicata alla ricerca del petrolio, in Adriatico lo stesso. C'è in discussione nella legge sugli ecoreati una norma che qualcuno vede come un regalo ai petrolieri. Noi però in Italia abbiamo un mare di oli usati che potremmo riutilizzare. E quindi tu dici, invece che cercare il petrolio, andiamo a prendere tutto l'olio che va smaltito, che già c'è comunque in mare, questo? No. È un bel progetto. Un mare, ma in questo caso mi riferivo non tanto al mare vero, ma a tutti gli sprechi di oli usati. È ripartita adesso la campagna da Palermo, circoliamo, la campagna educativa itinerante del consorzio obbligatorio degli oli usati. Rossano, questo è una cosa, insomma, è molto molto importante. Come la vedi? Riconferma l'idea della miniera urbana, della possibilità, riducendo gli impatti ambientali e promuovendo l'occupazione di utilizzare quelli che comunemente, banalmente chiamiamo rifiuti. Anche questa è un'eccellenza italiana. Ah, l'altra volta che bello. Parlammo dei sacchetti di plastica, del bando dell'Italia arrivata per prima, poi in questo caso è diventata un modello europeo. Cioè, anche grazie a gente come te, come voi, che avete rotto le scatole per anni su queste cose. Io lo dico certamente. Ma anche grazie a molte persone che singolarmente negli stili di di vita hanno capito che è una stupidaggine. E quindi questa storia del recupero degli oli lubrificanti è si qualifica con un risultato eccellente, che è praticamente rifiuti zero. L'88,6% di oli usati viene recuperato e rigenerato. E quindi questo oggi in Italia? Questo è il dato ufficiale sull'Italia? Sì, questo è il dato, è l'ultimo dato disponibile, credo che sia il dato 2013. Quindi l'88,6%, praticamente il 90% degli oli usati, in questo caso appunto, ripeto, non gli oli vegetali, ma gli oli lubrificanti, sì, viene rigenerato disidratando, cioè recuperando l'acqua e i sedimenti. E cosa ci si fa, Rossano, con tutti questi oli recuperati? Vengono riusati con la finalità, diciamo, dell'uso precedente, quindi vengono migliorati di qualità. Addirittura gli esperti dicono che sono migliori gli oli rigenerati mediamente di quelli originali. Quindi, ma questa cosa può andare avanti, cioè a un certo punto si interromperà, o può andare avanti a recuperare, non dico all'infinito, ma il ciclo di recupero è estremamente lungo, perché il problema vero è quello dell'acqua, delle acque che si mischiano, sì, e dei sedimenti solidi. Dopodiché, quando vengono rimossi, praticamente questo risparmia petrolio e risparmia anche economia. E l'Italia è un'eccellenza, tant'è vero che è in trattativa con la Cina per la vendita di un numero rilevante di impianti di questo tipo, sul modello di un impianto pilota di Lodi. In Sicilia ci sono diversi, cioè impianti, abbiamo un impianto a Lodi, che è un impianto modello che i cinesi ci vogliono comprare. Io non so se sia andato a buon fine il contratto, sì, ma so che i cinesi volevano acquistare un numero rilevante di impianti. Ma stiamo parlando, sentiamo anche malissimo, sì, Rossano, per cui possiamo dire che la nostra trasmissione sicuramente non è sponsorizzata da una linea telefonica, perché oggi con le telefonate siamo stati particolarmente sfortunati. Messi male, sì. Ma mi chiedevo, stiamo parlando dell'olio, essendo ignorante, stiamo parlando dell'olio anche quello della macchina, per dire, il lubrificante che mettiamo. Sì, indubbiamente. Quello uno lo può recuperare e torna a diventare lubrificante per la macchina. Lubrificante, ora naturalmente sono oli lubrificanti per i processi industriali, ma certo, molti degli oli lubrificanti sono quelli che noi, i 4 kg di olio che se buttati in mare significa inquinare un'area come un campo di calcio. Quindi noi il nostro olio una volta rigenerato lo possiamo rimpiazzare, naturalmente non lo possiamo fare noi direttamente, ci vogliono impianti industriali come quelli che appunto prima, così, certo, dicevamo prima. Intanto hai detto anche un dato che tu giustamente, siccome lo conosci molto bene, l'hai detto con semplicità, però ricordiamo agli ascoltatori che quando uno dice vabbè butto un po' di olio, pazienza, 4 kg d'olio inquinano un'area grande come un campo da calcio in mare, quindi è bestiale. Anche poi, un po', se uno ne ha poco di olio non lo butti in mare. Salutiamo intanto Rossano Ercolini, che sta raggiungendo la Calabria in macchina. Ciao Rossano, e ciao, eccolo, ciao, qua, ciao. E oggi appunto non fortunatissimi col telefono, ci scusiamo con gli ascoltatori, ma va così. Poi c'è anche tutto il tema degli oli quelli usati per friggere, per le cucine, esatto, perché esatto, anche quello bisogna raggiungere l'88%, anche di più, anche di quello. Su quello siamo un po' più indietro, ma ci stiamo lavorando. È colpa dei panzerotti, troppi panzerotti. 800 24 00 24. Romano dalla provincia di Modena, prima di andare sul traffico, buongiorno, benvenuto. Salute. Su cosa voleva intervenire? Sì. Bene, benissimo, buongiorno. Buongiorno, dunque io avevo telefonato, sì, per raccontare di un episodio occorso anni addietro, quando ero a commissario scuola d'esame, sì, in una scuola superiore. Mm-hmm. Prego. E, però sento che state parlando di oli, non so se... Ma no, è perfetto! È noi perfetto. Parliamo di tante cose, la sa, trasmissione, esatto, è la nostra rubrica Dove lo butto, e oggi abbiamo parlato di oli, ma noi ci stiamo chiedendo dall'inizio della trasmissione di raccontarci storie il di scuola, conduttore, buoni maestri, cattivi maestri, ecco, buoni allora insegnanti. Allora, questa è una storia di scuola. Sì. Ottimo. Vi racconto a riguardo dei presidi. Certo, non sono tutti come quello che andrò a raccontare, però, vada, ci racconti la storia. Però esistono. Allora, io come commissario ero in un istituto per turismo e i ragazzi, la stragrande maggioranza di quelli che si sono presentati, erano privatisti, diciamo un buon 70%. Ok. Mi avvicina la preside, una persona molto garbata, elegante, con i tupizzi, le catene d'oro, gli anelli con le metiste. Ho già capito dove vuole arrivare. Questo non è un ritratto tipico di insegnante, diciamo, di quelle con la passione nel cuore, ma puntini puntini, dove vuole arrivare? Ci racconti il succo delle... Mi avvicina e mi dice: questo signore, e mi indica nome, sì, e cognome, va promosso. Dico, bene, se va promosso lo promuoveremo. L'importante è che sappia. Certo. Dice: non si preoccupi del sapere, perché questo signore, sì, è uno che farà strada. Benissimo, però l'importante è che sappia. Era una raccomandazione, si stava raccomandando. Sì, stava dicendo appunto che lui era molto bravo nel costruire e ricostruire le dentiere. Dice: questo signore ha fatto al provveditore una dentiera magnifica. Ah, straordinario. Beh, questo è meritorio. Cioè, il fatto che abbia fatto una dentiera, era giusto premiarlo, pagando la dentiera. Ma non... Allora io resto rigido sulla mia posizione di docente esaminatore e andiamo a vedere i risultati. Allora, per gli iscritti erano fogli presentati in bianco. Sì, però ci faccia la sintesi, andiamo in bianco. Ecco, appunto. Quindi non è come sintesi, allora, dato che mi aveva presentato tutto in bianco, gli orali erano veramente orribili, perché dimostrava di non sapere completamente nulla. E allora, ma lei cosa ha fatto? L'ha promosso o l'ha bocciato? Per vedere come era andato il suo protetto. E l'ho messa al corrente che non sapeva niente. E come è finita, Romano? Però dobbiamo andare alla sintesi. Come è finita? L'avete promosso o bocciato? Allora io ho messo come posizione questa no, mia... ci deve dire se l'avete promosso o bocciato, Romano, perché dobbiamo chiudere. Lo promuoviamo. Lei naturalmente era contrario. Promuoviamo anche tutti gli altri. Va bene, tutti promossi. Non mi sembra una gran soluzione. No, è una storia bruttissima. Perlomeno adesso spero che abbiate tutti tantissime dentiere, se no è inspiegabile. Va bene, questo è un racconto fatto in prima persona, quindi dobbiamo crederci, ma magari non è l'unica storia così, incredibile. Era la raccomandazione, in questo caso arrivava direttamente dal provveditore, cioè dal più alto di così non si può, no, nell'ambito della scuola. E li hanno promossi tutti. E li hanno promossi tutti. Una dentiera per tutti. 800 24 00 24, ci risentiamo dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone, come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Oggi inizia il Giro d'Italia, bello, io adoro il Giro d'Italia, appuntamento bellissimo, tutti che lo seguono, quindi per una volta tu dici usiamo Frankie High Energy con Pedala per parlare di ciclismo in maniera perché competente, perché di solito lo usiamo sempre per parlare di altro. No, di biciclette in città, di biciclette, di piste ciclabili, di questa volta parliamo con chi in bicicletta ci va per ben altre finalità che non quelle sportive. Pensate, fino a Capo Nord in bicicletta per la lotta contro la fibrosi cistica. Sono alcuni ragazzi, uno di loro è Marco Passarini. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Marco, emozionato. Allora, voi siete alcuni amici, quanti? Siamo un gruppo di amici che da 3 è aumentato fino a 5 nel corso degli anni. Ok. E abbiamo cominciato. Che nella vita, però, aspetta, Marco, che cosa fate nella vita normale? Siamo dei ferrovieri, ma per l'imprecisione dei macchinisti. Infatti, il nostro gruppo. Bello. I ferrovieri con la passione per la bicicletta è straordinario. È perché perfetto. C'è un cambio di mezzo che è bellissimo. E avete deciso di fare. È la prima volta che fate una cosa del genere, o l'avete già fatto in passato? No, diciamo il primo viaggio nel 2011 è stato fatto da Trieste a Istanbul, prendendo spunto anche dal libro di Rumiz. Paolo Rumiz, certo. Paolo Rumiz, sì. Trieste a Istanbul, insomma, è già un inizio. Stavolta volete fare una pedalata, io ho visto la cartina, è impressionante, perché Capo Nord è veramente in cima all'Europa. Quanti chilometri sono? Sono 4.500, poi dipende dal percorso, però noi vorremmo passare dalla Norvegia, quindi non meno di 4.500. 4.500 chilometri, quanti giorni ci mettete? Tra l'altro. Speriamo di farlo in 30-35 giorni. Cioè, ecco, pedalate più voi di quelli che fanno il Giro d'Italia, perché credo che un Giro d'Italia siano meno di 4.000 chilometri, qualcosa meno. E lo fanno con altri ritmi, immagino. Lo fanno con altri ritmi. Con altri ritmi, però anche loro non è che ci mettano molto di meno, ci mettono comunque 3 settimane. Quindi se voi in un mese volete farne 4.500, magari pedalerete per 18 ore al giorno, non lo so come fare. Di solito sarà un po' difficile, tentiamo di farne almeno 8 al giorno. Di solito negli altri viaggi abbiamo fatto delle buone medie giornaliere. E dovete fare 100-150 km al giorno, giusto? Sì, c'è oltre i 120 sicuramente. 130, che è una roba quasi da ciclisti professionisti. Allora Marco, però ricordiamo subito i contatti, perché la vostra iniziativa benefica, c'è un sito nel quale si possono andare a fare delle donazioni per sostenere questa iniziativa, che è per sostenere appunto la ricerca sulla fibrosi cistica. Ci vuoi raccontare? Sì, il sito si chiama www.pedalaperunrespiro.it ed è stato aperto in collaborazione appunto con la Lega Italiana Fibrosicistica di Firenze. Si possono acquistare chilometri, pochi chilometri, pochi euro, tanti chilometri, tanti euro, no? sì, è stata fatta un'iniziativa simpatica, anche perché chi va in bicicletta magari può diciamo postare una foto nella pagina Facebook, è sempre con lo stesso nome, e acquistare chilometri magari pedalandosi lì realmente, mentre chi magari non va in bici acquista solo una parte di chilometri facendo la donazione in maniera virtuale, diciamo. Perché avete scelto proprio la fibrosi? È nata per un collega amico di famiglia di Mario, uno dei nostri del gruppo, un ragazzo del gruppo che ha il figlio affetto appunto da questa malattia. A me vengono i brividi quando sento raccontare così con semplicità, perché è bello che degli amici, dei colleghi arrivino fino a questo punto. E questo punto, soprattutto se questo punto è Capo Nord. È una bellissima iniziativa, vi facciamo i complimenti. Toglici una curiosità ancora, Marco, ma dovete prendere le ferie per fare questa cosa, come fate? Sì, abbiamo preso le ferie, fortunatamente è stata programmata già dall'anno scorso, quindi siamo riusciti un po' rosicchiando delle ferie dell'anno scorso. Cioè le vostre vacanze. Ma ci promettete che non è che poi a un certo punto farete dei pezzi in treno, visto che siete tutti ferrovieri e sicuramente vi conoscete non fra di voi, la lobby dei ferrovieri. Senti, è una battuta ovviamente. Quando arrivate a Capo Nord ci sentiamo, oppure a metà strada ci risentiamo, molto facciamo volentieri. Così molto volentieri, siamo disponibili. Grazie Marco, voglio ricordarlo, Pedala per un respiro, cercateli e fate la donazione, mi raccomando. Siamo in chiusura, giusto il tempo di dire che vincono i biglietti del concerto di Enrico Ruggeri, Roberta da Cremona e Franco da Lecco, per i loro racconti, e adesso non c'è tempo di ricordare sui loro professori, esatto, dell'epoca della scuola, il mandolino. Grazie a tutti da Carlo Gabardini e da Alessio Maurizio. Un ringraziamento a Andrea Piana, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone, Roberta Frisani, ho detto bene questa volta, vai, ce l'ho fatta in regia. A domani 8:30 si può fare. Ciao.